Allora, c'è qualcuno qua? Hola, hola, attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Chi sei? Da tu sei? Eia! Mi ero acceso un attimino, stavo per uscire, poi ci avevo detto che anche uno. Allora, ieri ho fatto tardi, eravamo con Marco, abbiamo fatto un satellite. Vabbè, uno non ci sono riuscito a collegarlo, l'altro ho provato un pochettino, l'ho sentito e Marco mi ha risentito. C'è dove c'è un'antenna da 13, stanotte alle 23:33 dovrebbe ripassare, proviamo, dovrebbe essere favorevole. Ma con quella pennina che stavate facendo con coso ieri per il satellite, vabbè, con Gianfranco? No, quello no, ho utilizzato il TS2000. Quella che stavate facendo con Gianfranco per cosa è? Quella fa un sacco di roba, perché quella fa da 2 MHz fino a 2005, 2003, non mi ricordo fa. Poi c'ha tutti quei pacchetti, tutte quelle cose strane, eccetera, per trasmettere tante cose e soprattutto per ricevere tante cose. E adesso che ha già capito, bisogna me la faccio anch'io una di quelle cose lì. Guarda, è molto interessante, se ti piace fare radioascolto è eccezionale. Naturalmente questa è una di quelle economiche. Se vuoi qualcosa di buono devi spendere un po' di più, almeno 200-250 euro, però cacchio, fai tutti i tipi di emissione, ti puoi fare qualunque cosa che ti piace, eccellente. Bene, ha preso una Gianfranco e una Marco Scurti, anzi Marco ne ha due, che per fare i satelliti di quelle serie, diciamo. Questa qua per divertirti, se c'è un computer ti diverti, dai. Non dico che sia eccellente, però ti diverti, dai, c'è un po' di roba da fare e soprattutto da vedere. È che mi dovrei cambiare il computer prima, per questo qui c'ha 12 anni. Vabbè, ma c'è quello, cosa, come si chiama? Quello di muro, su Claudio, c'ha un computer anche lui vecchio, Windows 7, eccetera. Io adesso questo ho aggiornato perché devi fare altre cose più complicate, ho preso Windows 10 Pro, è uno di quelli, un server di quelli ricondizionati, l'ho pagato pochissimo, piccolino, mi tipo più piccolo di un decoder TV, proprio c'ha la forma di un decoder esterno, ma è una bomba quello, c'ha 8 GB di RAM, hard disk SSD, eccetera. E poi quell'altro che mi ha dato Claudio, quello il case, quelli grandi, quello io lo utilizzo come col buco per mettermi tutte le informazioni, i collegamenti, eccetera. E quello cartaceo ce l'hai il coso? Per quello per il computer e per le bande, varie bande, invece quello cartaceo serve proprio per i collegamenti. Allora, mi ha detto Marco che prima di tutto non è più obbligatorio annotare niente, non c'è più bisogno, però io lo sto annotando i collegamenti, ti hai preso, ho fatto solo collegamento in V e in U e questo satellite ieri notte, non faccio nient'altro che annotarlo adesso a mano, finché non mi installa il programma Marco e facciamo tutto in automatico, perché quello poi, se scrivo IS0, bimbumba, lui ti dice l'hai collegato il tale giorno nel 2005, a tale ora, eccetera, eccetera, su tale frequenza, ed è una memoria virtuale, nel senso che tu come scrivi il nome sta automaticamente quello ti appare se l'hai già collegato, così sei anche un po', e poi è tutto organizzato bene, eccetera, eccetera, è collegato direttamente qrz.com, dove in tutto il mondo in quel momento lì sanno cosa, se lo vuoi far vedere naturalmente, cosa è collegato, eccetera, eccetera. È bello, fatto bene, quello di Marco è eccellente, proprio immediato. Ce n'è anche uno, Fabrizio, è meglio farsi guidare da chi ce li ha già, perché se ti succede un impiccio o qualcosa, magari io posso scaricarne uno da internet, è bello effettivamente, e poi ti si intrippa, dice come ti si va, mentre quello di Marco mi pare ce l'ha 20 anni, mi ha detto, è una cosa che funziona benissimo, molto semplice da utilizzare, affidabile, è meglio andare su chi ha esperienza, infatti io mi sto facendo guidare da quelli che sanno come muoversi. E infatti me lo farò dare da Marco. Sì, no Marco, non ce n'è, no, non diciamo altro, però è una persona molto molto, lo fa con professionalità, con passione, non è un paparacqua, assolutamente. Ok, io adesso Natalia, però devo uscire, magari ci sentiamo più tardi, dai, che devo far cosa. Ciao ciao, ci sentiamo più tardi e saluto anche qua eventuali ascoltoni su canale 10. K, buon QRT, alle prossime, dai. QRX ascolto per me. Roberto, sono mia. Oh, Marco è uscito. Roberto è uscito, ha fatto QRT. era qui proprio fa. Ah ok, sono impegnato. Benissimo, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ciao ciao, che sta passando un satellite. Ciao Mario. C'è qualcuno? Hola? Hola? 110? Avanti Roberto! Attenzione triangolo! Roberto quadrato!